visto che avete iniziato a dividervi su tutte le guerre, con un po' di promozione se riuscite a proseguire su questa strada bene, senza portarvi tutti al primo appello possibilmente, però va bene così. Per quanto riguarda le lezioni, vi confermo lunedì. Quasi sicuramente, dai, diciamo sicuramente. Sono stati un po' di cambiamenti di agenda, ma riusciranno ad andare a fare il tempo. E poi lunedì qua. Dovevamo guardare, vi avevo detto la settimana scorsa che avevo fatto una sorta di analisi in corso di un cambiamento sulla comunicazione pubblica, di un cambiamento di un portale che è quello del governo, che cambia. La mappa e questo dato. c'è la, la parte moderna in forma, che è il titolo di tutte comunque in questa stampa, o anche cosa ha fatto il governo in quest'anno, tutto quello col grafico con l'albero, forse la partire un po' le sfide del governo. E non è stato più istituzionale, ancora più istituzionale. Anche poi visto un po' anche l'interno, in quelle parti che sono ormai tutti uguali, non ci sono neanche più quelle icone laterali un po' che erano prima. Questo. Poi anche, l'ultima cosa è anche il link che riguardava le liste delle istituzioni delle istituzioni italiane, europee del mondo, adesso è. Cioè, è una che nel sito precedente il cambiamento da un ministero all'altro aveva delle grafiche diverse da ministero a ministero. Per esempio ci sono due ministeri, non so se è quello delle politiche agricole e un altro ministero, che ha lo stesso colore, la stessa impostazione grafica dell'homepage. Questo è quello che ho notato particolarmente. Poi la presenza in basso a destra del sito www.italia.gov.it e poi altri due siti che comunque sempre fanno riferimento ad altre tematiche del governo, cioè comunque sono dei sottopassi diciamo, del governo stesso. Altre osservazioni? Sono link per i vostri ospiti, comunque sì, questo c'era già, però è giusto dirlo, è stato un lavoro che è tutto bene a fare. E altre cose? È più. Io ho scritto un post sul mio blog in confronto delle cose. È più compatto, nel senso ha uno scrolling leggermente più corto ed c'è meno vuoto, quindi dà l'idea anche di una maggiore densità di argomenti, eccetera. Poi è troppo lungo come scrolling, ma è inevitabile. Allora, proviamo a fare qualche considerazione insieme. Voi siete entrati sul via aperto, no? No. Come mai no? Non siete riusciti a entrare. Mi sei bloccato così in basso. Mi tirate in formato. Esatto, sì, non è. Qualcuno ce l'ha aperto, sì? Io. Tu e basta. Informatica, questi computer si bloccavano su altro, quindi non so fare. Yeah. È chiaro che cosa succede? Succede che quando siamo andati online non tutto era ancora sotto e non tutto era ancora posto tuttora, sempre ci stanno lavorando in continuazione per sistemare, per portare le pagine da un sistema all'altro e soprattutto per verificare che ci siano dei problemi tecnici proprio di apertura di altre pagine, di congruità, di accessibilità, chiaramente. Ad esempio abbiamo scoperto che gli amici del Ministero del Programma hanno creato quell'angolo che vedete sulla destra soltanto una versione flash, quindi avendolo creato solo una versione flash non è una versione accessibile. Allora gli abbiamo fatto bloccare la home page, l'abbiamo fatto mandare arrivare soltanto attraverso l'approfondimento che si arriva attraverso il link del dipartimento del programma, che è uno dei due, come giustamente diceva Giorgio, che ha accettato la nostra proposta di fare la cosa 4.0 con la grafica coerente insieme a quella della funzione pubblica. Adesso poi oggi credo vado a lavorare quello del Ministero della Famiglia, sempre con la stessa grafica, se non c'è già, grazie anche che lo sia già in queste ore. E poi dopo quello dello sviluppo economico sarà poi difficile farlo fare coerentemente grafico a quei ministeri che nel frattempo quest'anno hanno risolto la cosa molto semplicemente, cioè saltando la lettera per dei soldi fuori, è difficile diventare subitati di tutto e farlo come vogliamo noi, però alla fine dovranno accettare anche questo, non come imposizione ma come logica poi per i cittadini. Andrà online tra poco. E quindi cosa è successo? È successo che siamo andati online normalmente il 21 dal Foro della Pubblica Amministrazione a Roma, è una grande esperienza per chiunque voglia considerare il sistema della pubblica amministrazione come qualcosa da cambiare, perché è una grande fiera dell'inutilità, ci sono questi grandi stand dove si mostra il bello della pubblica amministrazione senza che veramente ci sia poi un dialogo col cittadino, è tutto molto battato, tutto molto ben preparato e ben venduto, ben impacchettato, con poi manca di contenuti. Questo portale ha avuto i suoi piccoli problemi soldi quando si apre le mani qualcosa che può essere considerato appetibile. Abbiamo avuto tre attacchi di hackers nel giro di 40 ore. Ma è normale che questo fa parte del destino di chi poi governa delle cose così attrattive, per spirito così. I tecnici mi hanno detto che non erano attacchi particolarmente vincenti, questo non vuol dire che non sia un sito attaccato, non è come tutti gli altri, basta essere più bravi, quelli che difendono sono la partita di pallone, ma indubbiamente è la dimostrazione di come ci siano, come tutti i team, buoni e cattivi, poi uno può dire che sono buoni e che sono cattivi, però teoricamente noi ci sentiamo di essere dalla parte dei buoni, i cattivi ci hanno provato a attaccare più una volta e finora sono stati respinti. Ma anche questo non ve lo racconto così per dire come siamo come fatto di fare i nostri tecnici, per dire come anche quando si costruisce un sistema di relazione attraverso la rete bisogna considerare che non sempre viene visto come una sorta di servizio e basta, può essere anche visto come un nemico, come un divertimento da andare ad attaccare. E quindi bisogna assolutamente lavorare moltissimo sul tema della sicurezza. Se la sicurezza mi dice, ma cosa c'entra con quello che chiudiamo qua? C'entra perché anche i servizi che si mettono a disposizione, che sono soprattutto i servizi interattivi, sono quelli che poi possono portare dentro una serie di attacchi informatici legati all'invio dei virus piuttosto che altro. Quindi aprire il proprio mondo non è sempre facilissimo, nel senso che a volte non lo puoi fare fino in fondo proprio per questo. cambiare il discorso dell'attacco, degli attacchi informatici, che sono cosa quotidiana, non credo che metteranno i nostri blog, ma potrebbe presentare anche quello, oppure qualche tra di voi colleghi in modo alla vigilia dell'esame fate sparire il blog del vostro compagno più odiato, e quindi il professor Vincenzi ha una magra figura, però spero che non vi vengano queste idee. Il discorso dell'interattività di portale a cui faceva l'esperimento Roberto è quello di del fatto di aver messo online una serie di servizi. Sicuramente mi verrebbe da dire alla luce di quello che è successo, ma era inevitabile che fosse così, e cioè il fatto di aver aperto due cartelle di posta, una per scrivere al Presidente del Consiglio e una per scrivere al Governo nel suo insieme. Qual era lo scopo di questo? Lo scopo è quello di creare un canale diretto con la politica, tra virgolette, per colmare quel gap del quale tra l'altro in queste settimane si parla in modo molto rimarcato e ripetuto, cioè il fatto della politica lontana dai cittadini, della politica che costa troppo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, noi quando eravamo con Prodi a Bruxelles avevamo lo stesso canale di comunicazione, perché è praticamente una scelta obbligata per i commissari europei avere una tabella di posta. Cioè, non ci si inventa mai nulla di nuovo. Se voi scrivete a dove andate sul sito della Commissione, ancora oggi, quando si scrive la parola, si vede commissari di alcune innovazioni che fu messa da parte di quella presidenza, ma sulla pressione dei paesi scandinavi, soprattutto dei paesi non tanto più avanzati, ma quanto abituati più a un colloquio diretto, tenendo presente anche di paesi dove c'è meno abitanti e dove c'è un rispetto delle istituzioni diverse. Però era giusto farlo, e la Commissione europea all'epoca, la Presidente della Commissione europea, aprì questo canale. Le mail che arrivavano non erano tantissime, ma c'erano e arrivavano dappertutto ed erano molto adeguate, diciamo, molto sintetiche, eccetera. Noi abbiamo una situazione in Italia dove nessun politico che abbia un ruolo istituzionale apre un canale diretto, vero, con l'opinione pubblica. Ci sono i politici, l'abbiamo già detto, che si aprono il loro blog, ma poi quando tu rispondi al blog ti filtrano le risposte, perché se tu dici qualcosa che sei ragionevole, non si radito, non va sul blog, e quindi viene meno la logica del blog. Molto meglio, molto più logico allora costruire un canale che dico su scrivimi e io ti prometto comunque la risposta. Allora, abbiamo fatto questo senza pubblicizzare troppo la cosa, anche perché avevamo e ho la perplessità sulla tenuta tecnica del sistema, anche per una, non tanto perché i server siano pochi o siano di non adeguati tecnologicamente, ma proprio perché c'è anche una questione di peso della gestione della posta. Abbiamo aperto il servizio di posta sia al Presidente che al Governo, e viaggiamo ormai da martedì mattina, viaggiamo alla media di circa 150 mail a Prodi e 60-70 al Governo al giorno, che sono molto pochi in una logica di apertura al dialogo con i cittadini, ma sono molte rispetto allo zero che rappresenta l'offerta da questo punto di vista che c'è. Voi non trovate una possibilità identica né dai Presidenti delle Camere, né dai Presidenti della Repubblica, né dai Presidenti, né dai segretari dei partiti, eccetera. Scrive, talmente c'è l'idea di scrivere per mandare una mail per informazioni, ma non di aprire un dialogo, ed è, non è casuale il fatto di aver aperto, di ricevere un numero quasi triplo di mail quando le invia un nome e un cognome, piuttosto che quando le mandi genericamente a un indirizzo del governo. Io per questi primi giorni mi sono fatto reindirizzare tutte le mail che arrivano, alcune sono veramente divertenti anche, e altre sono drammatiche, altre sono veramente dei casi personali, situazioni al limite dell'assurdo, e stanno allo staccato del paese. Poi abbiamo guardato insieme al Presidente del Consiglio, non che ci si stupisca, però ci si rende conto di quanto, e qui c'è un'analisi proprio e semantica, e sociologica, e psicologica quasi del paese, del sociale, sulla quale si, attraverso la quale si vede chi ha l'utilizzo del web tra le mani. Ad esempio sono molto pochi i giovani che scrivono, sì, sono molte le persone di una certa età che scrivono, e uno diretto. Ma vuol dire che è talmente forte l'esigenza di mettersi in contatto, di dire qualcosa, di denunciare qualcosa, che alla fine ci si rivolge direttamente, e questo direttamente dovete considerarlo molto, perché noi stiamo parlando, stiamo facendo delle lezioni sul sistema mediatico, quindi su quello che appunto è un canale mediato tra la fonte e l'utente, tra la fonte e l'oggetto. Vuol dire che c'è la disponibilità, che c'è la, la volontà di accelerare questo, questa possibilità e di allargare questo canale, di renderlo, non dico unico, ma molto molto ampio. E appunto facilmente queste queste mail svelano come tutti i luoghi comuni, cioè il fatto che ci sia soltanto una nicchia di persone che possa scrivere, eccetera, sia poi destinata a essere abbastanza rapidamente smentita. Tra l'altro dagli account di posta che arrivano, buona parte della posta che arriva non arriva dai luoghi di lavoro, ma arriva da, da posta privata. Quindi c'è proprio uno che si mette lì e lo fa, non approfitta del momento di distrazione, a parte sempre i soliti picchi di navigazione del portale, quindi che l'utilizzo di questi servizi siano legati agli orari canonici delle pause, cioè la pausa del pranzo, la fine dell'orario di lavoro, l'inizio della giornata lavorativa. Ci sono anche molte mail serali, ci sono molte mail durante la giornata, e appunto ci sono molte mail di persone che hanno una certa età, che hanno una condizione economica non particolarmente elevata, ma che rispetto a quello che poteva avvenire una volta vanno a scrivere le loro mail dall'internet caffè piuttosto che dalle cartolerie, eccetera. Per darvi come la testimonianza di come quello che era una volta era mandare la cartolina postale, voi non vi ricordate forse neppure come la fate, o il fax per un certo periodo di tempo, adesso è diventato vado a mandare un'email se non ho io il computer, vado a mandare un'email e glielo dico qua. Ma un'altra cosa importante, sempre per ragionare in termini di linguaggio, è che la grande maggioranza di queste mail, anche quelle estremamente critiche, non sono mai insultanti. Lo sono in un, veramente in un caso su 100, una percentuale minima. C'è il rispetto comunque delle istituzioni, c'è il rispetto della persona, anche quando proprio ti dicono speriamo che venga andata a casa presto, c'è sempre comunque un modo di dirlo di un certo tipo. E questo, anche questo, svela un paese un po' diverso da quello che viene raccontato, cioè un paese che è diviso a tutti i costi, non lo è veramente, è un paese che ha dei grossissimi problemi in alcune parti specifiche, in alcuni settori, in alcune parti sociali, ma quando evidenzia questo lo fa in un certo modo. Tutto questo ragionamento perché ve lo faccio? Ve lo faccio perché ci riporta al discorso dell'utilizzo da parte dei media, non tanto dell'online, ma proprio dei sistemi di comunicazione e di interpretazione della pubblica opinione. Noi per il momento abbiamo volutamente inserito la parte, diciamo così, interattiva a metà della colonna istituzionale, quando in fondo non doveva stare lì, perché abbiamo detto che la colonna di sinistra è quella che racconta l'istituzione, che poi dentro le pagine interne ci portiamo sempre dietro, ma che è una sorta di segnalito di quello che leggiamo e studiamo. E prima chiudiamo, e abbiamo ancora per un momento, vedete, dato spazio al rapporto dei mezzi di comunicazione, in alto sulla destra, nella banda grigia a fianco del logo ufficiale del governo, c'è scritto Salazzata, quindi da lì la possibilità di accedere ai servizi che sono dedicati ai media. Però vi preannuncio già che questa è solo una transizione, tra qualche mese porteremo la possibilità per i cittadini allo stesso livello dei media di vedere le informazioni, chissà che in un futuro non si invertisca la possibilità di fare, cioè non si vada a mettere la parte dedicata ai media più in basso, quella direttamente alla forza di cittadina. Dico questo perché non si tratta di una filosofia soltanto, ma si tratta di una logica. Noi ci siamo resi conto, non perché siamo più bravi degli altri, ma perché è una sorta di percorso, di onda lunga che arriva, che alla fine, da questo punto di vista, quando si viaggia sul web, il canale diretto può essere davvero alimentato autonomamente e non attraverso la mediazione di qualcuno, sia in questo caso un mezzo di comunicazione o contrario. I mezzi di comunicazione si concentreranno su fare informazione autonoma, ma se io come farò nelle prossime settimane inizio a pubblicare le risposte del Presidente del Consiglio alle lettere, anche per dire che faccio che io, hanno capito, in questo modo il cittadino non avrà bisogno di dire chissà cosa ha detto il prossimo, va a vedere con questo codice di chiusi, con la ripetizione, sulla povertà, sul tesoretto, sulle tasse, eccetera, eccetera. È una scommessa molto forte dal punto di vista politico, ma è addirittura prudenziale rispetto alla capacità della rete. La rete ha una rapidità da questo punto di vista di accesso che permette di provarci o comunque di fissare una serie di di opzioni, diciamo di test. Io se faccio un test la prossima settimana, forse la prossima non faccio in tempo, tra una decina di giorni noi inizieremo a pubblicare tutta una serie di informazioni sempre sul tema dei costi della politica, sui tagli che sono stati fatti. Quindi il numero delle famose auto blu, il numero degli stipendi, l'ammontare degli stipendi, eccetera. Più sei trasparente da questo punto di vista qui, tenendo sempre presente le ragioni di sicurezza, di privacy, eccetera, più sei trasparente da questo punto di vista qui, più non smonti la polemica sui costi della politica, sugli abusi, eccetera. Però tu dici, io ufficialmente, perché questo non è un portale che interpreta dei materiali, li metto ufficialmente a disposizione del cittadino la sua responsabilità quando lo scrivo io, essendo direttore di questo portale, anche dal punto di vista giornalistico io ho delle responsabilità come quelle di un direttore giornale, con la differenza che ho una diffusione planetaria, questo vuol dire rendere totalmente pieno di vanagloria. Quindi tutto quello che io metto lì dentro poi praticamente pago le conseguenze dove ci possono vedere sui sistemi, perché io metto delle informazioni false, eccetera. Ma io non metterò delle informazioni che abbiano riferimento o possibilità di confronto sul passato. Io non metto noi abbiamo 180 auto blu e il governo precedente è arrivato a 150. Noi noteremo che c'è stato un taglio del 23% e l'auto blu adesso sono che è la stessa cosa, voi mi dite, ma non è la stessa cosa, è una questione amministrativa. Io dico di quanto sul bilancio dello Stato sono state diminuite il numero dell'auto blu. Non faccio riferimento aggettivato di dire rispetto al governo precedente. Perché vi dico questo? Perché il linguaggio agevola il rapporto, agevola il canale con il cittadino, perché rende affidabile l'informazione, la rende affidabile anche per quelle, per quella metà del paese che non la pensa come la maggioranza attuale di governo. E quindi viene considerata un'informazione comunque incontrovertibile, perché dati alla mano, cioè decreti alla mano, atti amministrativi alla mano, si dimostra che il numero delle auto blu in quel preciso contesto, che è quello del Presidente del Consiglio, piuttosto che, è supportata da un discorso normativo. L'importante è non metterci, non come quegli altri, basterebbe una frase di questa per modificare la rete istituzionale di quello che si pone all'attenzione dei cittadini. Questo cosa serve? Serve anche per dare un'informazione, saltare il canale delle media, evitare che arrivino delle mail che in posti della politica arrivano sui tempi a andare in giro a fare la spesa del lavoro più, cose che arrivano e che continueranno ad arrivare. Se tu parallelamente hai il quarto aperto per il dialogo, ma a fianco metti una serie di informazioni, di fatto, proprio per dire come sono le questioni, i tempi, i casi, automaticamente inizia a dialogare su tutto a 360 gradi, come ho fatto l'esempio nel governo Careale, su altri temi. Non metti in un calderone il decreto, le leggi che mandano in Parlamento, eccetera, le leggi a dei temi. Quello che ad esempio è stato fatto sull'albero del programma, l'albero del programma non è diviso per ministeri, è diviso per concetti di governo, per famiglie di provvedimenti. Sono tutti percorsi che possono essere totalmente inutili perché poi il governo può vedere domani mattina, però è legato al fatto di proporsi direttamente al cittadino. E questa è una rivoluzione che non ha colore, che non è di destra o di sinistra, ma è una rivoluzione che è destinata a decidere costantemente sul rapporto tra il cittadino e la politica. In Italia, ma non solo in Italia. In Italia in modo particolare perché c'è comunque nei confronti della politica un atteggiamento di diffidenza dalla parte, ma anche di partecipazione quasi da curva sud dall'altra parte, nel senso che comunque si viene a creare un punto di qua, un punto di là. Io sono critico dal punto che sono convinto che questo accada, questo però no, si creano con tutte le leggende metropolitane, si vengono a creare delle storie pazzesche su. Se tu dai una serie di informazioni precise, o più possibile precise, che siano poi appoggiate da numeri di protocollo, di decreti, di leggi, di percorsi istituzionali, a quel punto il lavoro dei mezzi di comunicazione, tra virgolette tradizionali, inizia a essere più difficile, cioè diverso non lo viene più facile, una serie di fonti anche loro possono scrivere meglio, ma vanno in critica. A quel punto il cittadino sul suo giornale se lo fa da sé, il suo giornale mentale, si va a cercare le informazioni da solo, anche perché noi abbiamo visto che su questo portale la frequenza delle visite, ma anche la durata delle visite inizia a farsi interessante. Cioè, quando si analizzano le statistiche di un... lo potete fare anche voi per certi versi, no? Se vi montate quei motori di statistica tipo lo Shamistat eccetera, potete vedere quanto di buono ci sia in quelli che vi visitano e quanto è lunga la cosa. E notiamo come la durata delle vite inizia a farsi, inizia a andare sui minuti, non più sui secondi. Cosa vuol dire questo? Che magari si va su un portale per vedere, ah, devo trovare qualcosa su una legge, oppure devo capire se c'è il numero verde sulla, sul caldo, e poi beh, però guardiamo anche questo, cioè si sta iniziando fortemente, in modo molto in crescita verticale, si sta modificando la, l'approccio del, dell'utente al, ad esempio questa qua che è stata pubblicata sul il piano controllo entrate di calore, che dovrebbe essere trovata nella se trovate viaggiando nelle notizie dei ministeri, c'è stato addirittura in alcune mail chiesto da dei cittadini, ma non mettete nulla su internet per dirci come difenderci al caldo, come è stato chiesto, non è stato chiesto più a noi dal Ministero della Salute, tra l'altro, perché poi il governo viene individuato come quello che gli deve risolvere tutto. Se non vado al Ministero della Salute se sarebbe tutto male io, non per ecco, già questa è una cosa che fino a qualche anno fa mi sarebbe mai accaduta, sarebbe andati a vedere la televisione se diceva qualcosa, a vedere il televisore, si sarebbe comprato un giornale. Io cioè, ho visto, ho parlato delle mail, ho fatto rispondere alla redazione, perché poi diventa una caccia al tesoro di informazioni reciproche, no, ma per quale motivo, cioè, sicuramente metteremo online presto, perché naturalmente interessante, cioè, così era una maestra, così le stampo, le do ai ragazzi a scuola, se le portano a casa e si possono lavorare i loro nomi e cose per capire come viene a scavalcarsi, quindi se lei si stampa la cosa non prende il giornale o l'Italia della casa fotocopie e poi comunque quella è una cosa ufficiale, cambia molto di molto il rapporto e cambia molto di molto anche il linguaggio, quindi, perché grazie a queste informazioni tu sai che cosa vuole, diciamo, l'opinione pubblica, che cosa deve avere anche, perché in questo caso si tratta di un servizio, anche lì stando sempre attenti a non trasformare l'informazione in una propaganda. Ad esempio, io sono in queste ore alle prese un piccolo dilemma che riguarda le presenze dei rifiuti a Napoli, perché sono combattuto su come comunicarlo dal punto di vista governativo. Io potrei fare il gesto propagandistico di dire che è cominciata la funzione delle nave, il sito è stato aperto, su un altro si lavora, un altro ci sono, il Ministero della Salute ha mandato una task force, eccetera. Io vi parlo in modo molto franco e vi racconto anche cose che possono essere di utili fino a lì e che sono poi abbastanza, che la raccontiamo in famiglia. Dall'altro canto, se nella provincia a fianco fare un blocco stradale e poi c'è una carica della polizia e ci sono 10 feriti, tutta questa informazione positiva viene bollata verso il ma come avete detto che andava tutto bene, 30 km più là è inutile. Allora, questo da un certo punto di vista tra l'altro è un grande monito istituzionale, nel senso che impone o di dire molto poco o di dire l'essenziale, cioè dire che è cominciata l'operazione di campagna per contro le violenze di chiuse, è stata la commissaria straordinaria di elettorato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Salute e con il Ministero dell'Interno, si sta lavorando per procedere all'individuazione e alla messa in opera dei siti, eccetera, eccetera. Punto. Perché se io, perché è giusto così, perché se io scrivo che si sono fatti passi in avanti in terra, do una mia lettura della cosa che non sono tenuto a dare, anzi che non devo dare, se la do automaticamente metto un indizio di merito su quello che è stato fatto, che ricordiamoci, perché va sempre tenuto presente, tanto più nel mio caso, è un potere chiamare la presenza di Giulio, non è che facciamo quello che cosa facciamo, prendiamo l'altro e si chiamano la presenza, è un dovere perché è veramente una presenza, cioè, poi arrivano le mail dei cittadini come quello che dice, ma buttiamo il dentro il Vesuvio sperando che si rimetta in vita, ma quelle sono anche le forzature, ci sono anche degli italiani così ai quali tutto risponde, tra l'altro, perché lì non sono messi, ho fatto una risposta un po' più, ho cercato di riportarlo alla ragione, però non rispondere sarebbe stato peggio, perché tu accettavi come istituzione una follia razzista da parte di un cittadino, cioè dire, ovviamente non è possibile condividere quanto lei sostiene se è presente. E non è una mossa politica quella, perché qualsiasi logica umana direbbe tu, non li puoi dire che è un indicente, glielo devi dire in modo politically corretto, come si userebbe dire in senso anglosassone. E tutto questo discorso che vi ho fatto sul rapporto che si è venuto ad aprire sulle mail, e che poi nelle prossime settimane racconteremo anche dal punto di vista mediatico, ve l'ho voluto dire in anticipo, proprio perché voi vi possiate rendere conto di come cambia, di come cambierà sempre di più il rapporto, senza bisogno di inventarsi termini nuovi, tipo il blog, YouTube, Second Life, eccetera, per dialogare. Basta semplicemente il canale madre, il canale proprio base, che è quello dell'aprire la casella di posta elettronica e dare la possibilità di iscriversi, dall'altra parte qualcuno risponde. Io anche lì ho messo a lavorare la mia povera redazione e a rispondere, comunque, non a rispondere a nome del Presidente, perché quello non è sempre comunque un rischio, a rispondere dicendo determinate cose, no? A parte che c'è un po' di risposta automatico, che la mail è stata ricevuta, grazie, cioè prima di rispondere alla gente, e poi nel giro di 48-72 ore al massimo si prova a rispondere, dando comunque delle informazioni, dicendo che la mail è stata girata al Ministero che se ne occupa direttamente, eccetera. È sempre burocratico, ma è comunque qualcosa che dà l'idea che dall'altra parte del computer, del filo, del cavo, della spina, della rete, ci sia qualcuno. Ed è importante perché l'etichetta informatica vorrebbe che si rispondesse davvero nelle 48 ore. Quindi se la pubblica amministrazione fa capire di essere in grado di rispondere in tempi brevi, di dare anche una umanità al suo ruolo, si cambia anche da questo punto di vista il rapporto, si viene a creare una credibilità, si viene a creare una, se non una fiducia, comunque una forma di rispetto nei confronti delle persone a cui si è scritto. E se poi molte persone, e poi arrivano anche mail da tutto il mondo, non è che arrivano le mail pazzesche, quelli che chiedono la foto con l'autografo, c'è una signora che voleva partecipare alla parata del 2 giugno, quella l'abbiamo evitata perché è una cosa che era in fondo, se una, senza darne pubblicità, perché non deve diventare un'arma di propaganda, c'è una signora interna, io non ho mai, mi chiede tutta la vita che desidero partecipare alla parata del Corpo Imperiale, allora io ho chiamato il capo del cerimoniale e ho detto se controllate che non sia una terrorista islamica che venga con una cintura di bombe, è invitata, l'hanno invitata e la signora, la donna più felice del mondo, e il 2 giugno sarà la parata del Corinthians. Per dirti come poi l'Italia fate queste piccole cose, ed è poi anche umanamente bello rispondere a queste persone, ma c'è anche chi ti scrive dall'estero e ti dice vorrei l'indirizzo dell'asilo di Rignano Flaminio. Allora tu ti chiedi, perché me lo chiedi? Perché vuoi andare a Darmanforte a qualcuno per andare a passare lì? Certo, il mondo è fatto così, quindi una situazione aperta, open, assolutamente open, è giusto considerarla per quello che è. Chiudendo questa parte di ragionamento, come tutto questo viene vissuto dai mezzi di comunicazione? Cioè come il giornalismo si occupa di questi canali? Il problema è che non se ne occupa. Questo questo servizio che è stato messo su dal governo è stato, anche perché non tutti lo sapevano, ma ovviamente lo sapevano, è stato un po' ignorato dai mezzi di comunicazione, ovviamente va benissimo. Ma è stato ignorato per una doppia valenza, perché non se ne capisce l'impatto che c'è e perché si teme davvero, in un senso quasi inconscio, che poi alla fine diventi il passepartout, diventi la leva sulla quale poggiare la fine di un certo modo di fare il giornalismo. Perché se io chiedo direttamente alla fonte cosa ne pensi di questo e tu mi scrivi dicendo che Carlo Luigi ti dico come la penso, fermato la mano qua, se bisogno di andarmi a leggere il giornale quando io poi la mattina dopo al bar posso andare con il foglio, così, perché sei il presidente. Quindi c'è anche un meccanismo di autotutela, da parte del mondo dei media, che non potrà durare a lungo, nel senso che comunque, ripeto, tempo non credo di andare molto lontano davvero quando dico che ci batteranno ancora un 7-10 anni prima che cambi completamente il mondo dei media da questo punto di vista, che sarà composto sempre di più da mondi di nicchia specializzati tantissimo sulle varie cose, sui vari temi, dalla scienza allo sport, alla politica, all'economia, e dei generalismi molto, molto popolari, diciamo. E poi ci sarà la stragrande maggioranza delle persone che per una informazione generalista se la costruirà da sola attraverso la rete, attraverso i canali diretti che potrà aprire con essa. Ma è inevitabile che sia così, perché la diffusione del mezzo informatico e anche in un certo senso la presa di coscienza di poterlo fare assumendosi un ruolo di dire ci penso io, ma non dico in un senso di giustizia, dire io voglio sapere questo, non mi accontento di come me la raccontano, può avere un suo significato. Io adesso sono ad esempio alle prese con costruire, no, questa struttura di comunicazione che non esisteva al governo. E so, per evitare di aumentare i costi della politica, ho messo online all'interno della pubblica amministrazione una sorta di appello dicendo se volete provare a fare qualcosa di diverso, volete inventarvi un modo di fare il vostro lavoro, se volete potete venire a lavorare in questa struttura. Tanto è un rischio perché la struttura di dipartimento e comunicazione che morirà col governo, nel senso che non è inserito all'interno della pubblica amministrazione tradizionale, non è un ufficio legislativo, è un dipartimento della comunicazione del governo studiato per appunto creare forme di contatto e dialogo con l'opinione pubblica e con i mezzi di comunicazione e anche fare una comunicazione interna e internet. Quindi c'è anche il rischio, poi per chi inizia a lavorare questo ufficio, questo dipartimento, di ritrovarsi fra 1, 2, 3, 4 anni, quanto dureremo, alla fine dire vabbè, ma io adesso dovevo tornare indietro, sì vabbè, però adesso torni, ma magari non ritrovi il tuo ufficio, ma non ritrovi la stessa cosa che facevi prima. Quindi c'è anche un bagno di inizio, per presente si è parlato di lavoratori statali, quindi con una concezione un po' particolare, da anche poi l'età media che non è particolarmente acerba, eccetera. Nonostante questo, io ho fatto questa offerta di lavoro, chiamiamola di stacco, si chiama tecnicamente, a questo dipartimento, e sono arrivate decine di richieste di persone che vogliono venire a lavorarci. Perché? Perché nonostante tutto è affascinante l'idea di provare a costruire un nuovo modo, per dimostrazione quando dicevo che la pubblica amministrazione ha anche al suo interno una serie di ottime professionalità, ma anche di persone che hanno voglia di mettersi in gioco. Quindi se si diffonde questo meccanismo, se si diffonde questa logica del creare questo genere di rapporto con l'opinione pubblica e anche di essere fonte primaria nei confronti dei mezzi di comunicazione tradizionali, è chiaro che il successo imporrà anche al successivo governo di tenere una struttura del genere, perché sarebbe folle smantellare l'idea di sfruttare il mezzo telematico per parlare con i cittadini. Sarebbe un errore politico fortissimo per chiunque, che sia di destra o di sinistra, dovesse succedere a questo governo. Diciamo, prima l'ASI poteva scrivere se avevano informazioni subito, eccetera. Voi vi chiudete e non date la possibilità, sarebbe un suicidio, quindi è abbastanza una scommessa già vinta in partenza. Però tenete presente che c'è anche questo fattore, cioè il fatto che la pubblica amministrazione si sta interessando da sola a questo genere di rapporti. Vale molto di più quindi a volte nel mondo della pubblica amministrazione piuttosto che nel privato. Il privato, quando si trova a dialogare con il cittadino o con l'utente, se ci fate caso, cioè vedete un mondo che volete a caso, una multinazionale, una società, un'associazione, eccetera, si fa dialogare fino a un certo punto, poi lo si mette la riservata. È una sorta di tutela, dice sì, va bene, io ti faccio vedere chi sono, eccetera, però poi dopo qua è roba mia, non puoi più entrare, qui c'è il giardino, ti faccio vedere come sono le fontane, ti faccio vedere l'atrio, ma poi dentro il palazzo mio non ti faccio entrare. Questo è il limite grosso di internet quando è usato in questo modo. Mentre invece l'idea dell'open source, dell'open space, del servizio open, come va giustamente raccontato e messo a disposizione, è l'unica strada per poi mettere in difficoltà i mezzi, ma non per mettere in difficoltà perché lo si vuole fare, ma perché si privilegia il rapporto diretto, per mettere in difficoltà i mezzi di comunicazione tradizionali, che altrimenti potranno sempre dire io ho la possibilità di arrivare sul cittadino normale dove ti bloccano all'area riservata la password, io invece ho diritto, siccome sono un mezzo di comunicazione, di avere quell'informazione e poi di raccontartela, e quindi fidati di me, io te le racconto, leggi il mio giornale, guarda la mia televisione, guarda il mio sito, perché io te le posso raccontare. Quando anche nel mondo privato o mondi pubblici, ce ne sono anche di quelli, smetteranno di avere aree riservate, perché il modo per non mettere aree riservate è semplicissimo, basta non mettere in rete quell'informazione. Tutto può essere open. Se io voglio mettere in rete delle informazioni riservate, basta che mi faccio una rete intranet, nella quale, che non è visibile, nella quale posso mettere dentro le informazioni che voglio, che ho già risolto il mio problema. Ma questo non avviene perché? Perché se io, associazione privata o mondo di un certo livello, o che voglio far vedere esserci un plato o qualcosa, non metto un'area riservata, automaticamente non sono elitariamente qualcuno. Cioè, allora tutti possono tutto, no? Ci devono essere delle persone più speciali che possono avere questo genere di informazioni. E questo è fatalmente destinato a essere un errore dal punto di vista della diffusione della comunicazione, che alimenta ancora dei sistemi di mediazione. Se l'informatica, vi dico, viene usata in un certo modo, se io delle informazioni non le voglio far passare, io le metto sulla rete intranet dove hanno accesso le persone di quegli specifici servizi, quei specifici uffici o di tutta la pubblica amministrazione, girano lo stesso, sono collegati in rete, ma non in rete online, in rete offline, fine, non lo vedranno mai gli altri. Se poi qualcuno lo manderà fuori, se ne assumerà la responsabilità di averlo fatto, tanto c'è sempre il solito problema, bisogna essere estremamente bravi per non lasciare tracce, ma estremamente bravi. Quindi, siccome la media degli estremamente bravi è 1 a 1 milione, la possibilità di essere così bravi per non lasciare tracce è sicuramente limitato. Ho imparato delle cose io, senza sapere fare, ma chiedendole, che fanno paura sul fatto di poter risalire a cose. E non saprei come fare, perché spesso quelli che risolvono questi problemi sono i ragazzi, i giovanissimi, che hanno una capacità di programmazione sul momento delle varie situazioni che sono hanno paura veramente, tanto delle coroncine di una cosa adesso. Ci fermiamo un attimo, così prendendo una boccata d'aria e faccio una telefonata. Allora, ci sono cose che quello che vi ho raccontato, che ha qualche vostra osservazione o domanda? Cos'è la versione flash? La versione flash è una versione animata, cioè una versione che consente di vedere buona parte delle pubblicità che voi vedete, dei banner pubblicitari che vedete sui siti, sono versioni flash. E non sono possibili, non possono essere viste le tecniche delle persone vedenti, quindi diventano, tra virgolette, illegali. E quindi vanno trasformate anche in percorsi che non siano flash. E anche per l'ipo vedente ci sono dei problemi sulle persone flash. E tra l'altro in molte pubblica amministrazione e molti uffici non è possibile usare la versione flash, per cui quella pagina è retta bianca, non vedi niente, quindi è mancato servizio da questo punto di vista. Perché? Perché molte imprese private e molte enti pubblici non le permettono, bloccano alla fonte la versione flash per evitare che chi utilizza i mezzi magari che l'amministrazione piuttosto che di una società vadano a vedere particolari siti. Altre domande? Siamo andati al forum PR, abbiamo comunicato lì, Prodi ha aperto il sito e poi l'agenzia ha dato qualcosa, ma non so, assolutamente nessuna campagna istituzionale. No, perché per evitare gli assalti subito anche. Non c'è una struttura tale da poter permettere questo. Quindi non era quasi di fare la campagna, il fatto che non aveva senso perché era spendere dei soldi di tutti. Quindi. Metteremo alla fine poi dei banner, magari quando saremo pronti fisicamente sui siti dei giornali, per dire scrivi al governo, eccetera, così è un tentativo di entrare nel campo del venino, se andiamo nei siti dei giornali per dire scrivete a voi, non andiamo tutti qua, lo faremo con piede. Invece volevo sapere una cosa, quando si inviano le mail al Presidente e al governo? Le leggo io, quindi prendo solo questo. No, no, il Presidente risponde, il Presidente dovrebbe rispondere, giusto? Il governo risponde il sito, cioè i responsabili del sito o il governo, cioè per esempio io voglio parlare, voglio sapere notizie di politica agricola, per esempio risponde il ministro del Presidente del Consiglio. Noi dipende se si tratta poi di un quesito specifico o meno, viene chiesto viene girata la politica agricola e poi dopo si impegna a rispondere. Poi la brutta figura ce la fa tutto il governo, però poi dopo noi chiediamo conto di quello che hanno risposto. Ma io posso per esempio dire al Presidente del mandare un mail al Presidente e dire io mi lamento e lui girarla al Ministro delle Politiche Agricole? Beh, è molto più logico di scrivere al governo, perché è inutile dire al Presidente del Consiglio quando poi lui ti risponde grazie della tua mentea, mi dispiace e ti faccio rispondere da questo. Anche perché poi arrivano ovviamente mail su tutto, no? Cioè io ho fatto il concorso della gestione delle entrate di Trento, sono arrivato al 42esimo, non capisco perché. Cioè, cittadino poi originale nelle sue richieste. Allora questo vuole vincere il concorso, però pensa che il Presidente del Consiglio sia riduce la sedia, chissà come è andato il concorso alla Vicenza di Trento, e se questo signore è riuscito a vincere. Perché poi lui è convinto che il suo problema sia il problema del paese, inevitabilmente. Quindi i casi specifici delle persone diventano quelli più difficili per certi versi a cui rispondere. Io volevo chiedere un'altra cosa, il fatto che per poter utilizzare l'albero grande, necessario andare in alcuni mezzi, e questo è voluto? È voluto perché in questo momento non c'è la, la sicurezza che l'accessibilità dell'albero attuale sia... c'è la sicurezza che non sia regolare al 100%, quindi qua bisogna evitare anche quelle che sono le interrogazioni parlamentari piuttosto che l'associazione dei consumatori che si dicono ah voi non avete succede anche questo. Altra cosa? Io ho visto che c'era la possibilità quando dicevamo l'altra volta degli addetti e quindi noi avete messo che era certo sui vostri blog e dovete testarci l'uno con l'altro? Non testare non capire come funziona, fate bello perché avete visto in Cina la vita per voi tutte le volte, poi non vi rendete conto cosa vuol dire stare tra i giornalisti delle telecamere, i curiosi, la scorta, cioè il fisico. Infatti ho scelto di non andarci mai perché ho paura. Sono 24 ore. anche Yahoo. Yahoo. Saranno tutti, hanno scoperto che è il caso, semplicemente perché ci sono anche problemi, ma lo trovo, però dov'è? In che punto della pagina è? È il messaggero. Insomma, ce l'hanno tutti, fino all'altro giorno nessuno ne parlava. Emergenza caso balato via del governo cellulare, non c'è nessuna emergenza, come non c'era 10 ore prima che noi balassimo il piano. Però basta mettere la notizia per dire guardate che può fare caldo e qualcuno potrebbe avere emergenza, c'è anche l'utilizzo delle parole come era frequente allarme, emergenza oppure vertice decisivo, alta tensione, crisi, cioè l'aggettivazione delle cose non c'è in nessuna parte del comunicato del Ministero della Salute, del Governo e del materiale che il Governo ha messo online, non è mai citata la parola, credo, spero, emergenza, parla di ondate anomale, parla della possibilità di eventuali ondate di calore, eventuali ondate di calore, perché c'è in modo molto chiaro, e viene tradotto con emergenza a caso. Allora, qua c'è qualcosa che non va. Io cittadina ci credo, oggi ancora credo a chi mi dice emergenza caso, inevitabilmente, perché mi mette in allarme, mi mette paura. E io sono bravo a raccontare come sono le cose, ci trovo persone come quella maestra che mi ha scritto, che ha scritto al governo per dire mi dica dove trovo le cose perché così le stampo le do ai bambini che se le portano a casa e si coprono e si mettono il cappello eccetera, automaticamente crea un canale di comunicazione, ma non tanto perché sia più corretto, semplicemente lo definisco diretto, non voglio dare valutazioni, lo definisco diretto, poi sarà il cittadino a considerare quale sia più utile o meno. Però se sul sito appunto del TGCOM si parla di emergenza, ecco, fatemi vedere Repubblica. Si può dire senza caldo che è a rischio il 20% della popolazione avanti negli anni. Ma è ovvio che non è a rischio, cioè, come dire, non rischia che un buona salute ha molto acqua in casa, è un'oppietà che è a rischio che è anziano, però questo fa un titolo. E poi troverete domani l'interetto a vedere i servizi costruiti con le immagini d'archivio della gente che si batte nell'università, e quello col pensato, l'anziano col bastone davanti a casa che mi trema la mano, perché questo costruisce il percorso all'arme. E allora l'anziano che già attraverso vede la televisione dice ma quello potrebbe essere il padre, e da lì dà ragione al fatto che al giorno dopo muore. Ora, qua la possiamo buttare più ridere, ma tecnicamente, scientificamente, ha tutta la sua escalation, no? Anche non dimenticare persone in macchina. Cosa? Cioè, tra le regole, non dimenticare persone in macchina. Non dimenticare persone in macchina? Non mettersi in rapporto. Un approfondimento del messaggero. No, ma io credo, adesso, se noi andiamo a vedere, torniamo un attimo, perché ripeto, non ho visto, magari queste fesserie le abbiamo scritte anche noi, campagne di comunicazione per una corretta esposizione al sole. Il Ministero della Salute ha chiesto l'invito, le basse, il caso di ricordare, cioè vedete, quando qua c'è raggi UV, si cerca di ricordare che l'esposizione ai raggi UV non ha soltanto effetti negativi, in quanto tale radiazione ha un ruolo importante nella sintesi organica di vitamina D. Qua se noi avessimo, oggi non lo possiamo fare, ma non lo possiamo fare perché non abbiamo le energie fisiche delle persone, ma se da qui noi chiedessimo al Ministero della Salute di fare un dossier sul valore positivo dei raggi UV, scopriremo che il calore del sole non è solo considerato come un nemico, come quello che ti fa venire il melanoma, come quello che ti fa abbronzare, perché a seconda delle cose le puoi considerare in modo positivo e in modo negativo. Dai uno spettro di informazioni cariche. E allora vediamo. Non rimanere esposti al sole troppo a lungo, tenere i bambini andati a lottare dalla luce, l'esposizione eccessiva al sole che costituisce un grave rischio per la salute, applicare il prodotto per la protezione solare e applicare con frequenza, evitare che esposti nelle ore più tardi, ci sia una maglietta a cappello, ma nessuno scrive non lasciate le persone in macchina per dei giorni e mandano soltanto acciughe e non possono vederlo, perché è evidente che muore. Però evidentemente chi ha fatto quella notizia si crede spiritoso ha scritto questo tipo di decalogo. E domani o dopodomani o tra una settimana troverete qualcuno che con il classico copia e incolla fa un articolo e ci scrive non lasciate le persone chiuse in macchina. Che non è nemmeno considerabile la stupidaggine, è semplicemente una scarsa professionalità. Raccontare le cose in questo modo non si aiuta, non si fa, non si dà un servizio. Però lo stiamo vedendo insieme, lo stiamo vivendo in tempo reale, com'è meno divertente leggere il dossier che ha predisposto il Ministero della Salute che il governo ha messo sul suo portale. Perché non ti dà quel gusto di dire ci saranno 45 gradi? L'altro dice che siamo morti perché riporta le parole. Cosa dice l'altro? L'altro, beh, riporta le parole di Giampaolo Pastri. Siamo molto preoccupati per 20 anni che dice che non sono andati a fare la partita. Ecco, guardate la foto sull'Ansa anziani a rischio e scappatino. Guardate la foto sull'Ansa.it. Thank you. senso. Dicevo il discorso del canto, avete visto, no? La classica iconografia dell'anziano, con il fazzoletto sulla testa. Noi potevamo mettere anche quella, no? Noi di la foto sul sito del governo, non abbiamo nessun problema, la stessa foto l'abbiamo anche noi perché abbiamo i servizi dell'ASA. Ma se noi mettiamo quella foto invece della foto che è stata scelta, dell'immagine che è stata scelta, dell'immagine un po' troppo poetica per i miei gusti, ma comunque che ha avuto senso, non allarma il cittadino, gli dà un senso grafico senza andare a incedere nel terrorismo psicologico. Se noi avessimo messo la foto, quanto poi questi signori, magari loro non hanno l'accesso al web, ma si fossero ritrovati sul sito del governo dicendo no, ma quelli siamo noi che ci per morire di caldo, avrebbero avuto un problema. E stiamo parlando, è fatto bene a trovarlo, Caterina, perché abbiamo praticamente visto come l'ANSA, che viene considerata giustamente estremamente seria, ha scelto una lettura, chiamiamola così, molto scenografica della cosa. Anche perché massima allerta al pubblico non è nemmeno corretto, come se noi ritorniamo al sito del governo, Questi materiali che sono stati stati dati ai media sono quelli che poi sono stati dati anche alla nostra redazione, che la nostra redazione ha composto e sistemato. Quindi esattamente la fonte, il Ministero della Salute, in questo caso prima ancora che governa, ha dato a tutti lo stesso materiale. I risultati di come questi materiali sono stati portati all'attenzione dell'opinione pubblica lo avete visto. Ma questo è chiedere la macchina che lo tiene, che fosse il Ministero della Salute. Certo. Sì, ci sono 10 regole per le mie. Come di questi. Adesso le alcune prestazioni si esce in macchina, non lo so se si esce in macchina, vabbè, se si esce in macchina sì, però se lo sintetizzi. Sì. Allora, a parte di tutta la cosa è se vai a fare il bagno, metti il cappellino, e non però dire non fare il bagno, non lasciare in macchina, cioè. Se tu estrapoli la cosa più clamorosa da ognuna delle raccomandazioni che vengono fatte, perché tu dai tutto uno spettro complessivo, per i bambini, per gli anziani, per i cardiopatici, per chi vive in città, per chi vive in montagna, per chi va all'estero, eccetera, è un conto, io ti do un file su quello, fai su quello, fai su quello, ti pubblico tutto, eccetera. Ma se tu sintetizzi geograficamente e prendi la cosa più, tra virgolette, divertente, non lasciare i bambini in macchina, non metterli sulla testa al burro quando va sulla riva del mare, queste cose qui è evidente che diventa ridicolo la notizia, ma non c'è nessun sito, e lo avrebbe fatto, lo potuto fare tranquillamente, non c'è nessun sito che dia la notizia e poi dica clicca e vai al dossier del governo, mi fa piacere, inizierà a capire che possono sfruttare soltanto. Vai lì. Tra l'altro ti liberi anche da un certo punto di vista anche messaggio, perché dicono, beh, dicono loro, tu fai la sintesi giornalistica, quindi ti tieni il tuo spazio e poi per le ragioni ufficiali mandi via. Invece chi vuole sintetizzare la cosa e poi non ti dà la possibilità di andare a vedere, ma ti dice soltanto sarà attivo il numero verde dal tal giorno, allora a quel punto lì si assume la responsabilità di dire il lame caso c'è, si affronta così e se proprio sei disperato chiama con il tuo telefono. Quello non è dare informazioni, quello è assumersi la responsabilità di un tipo di comunicazione. Allora si invertono i ruoli e quindi alla fine ci ritroviamo a fare più informazioni noi, che in realtà dovremmo soltanto comunicare quelle sono le direttive, i consigli, rispetto a chi sintetizza in un altro modo della cosa. Ma comunque mi fa piacere che il Corriere abbia anche il Messaggero. Stiamo diventando famosi. Comunque nel decalogo sul sito del governo, cioè, cercate di non scottarvi mai. Cercate? Di non scottarvi mai. Beh, quello è per evitare di rimanere esposti troppo tempo al sole. Cioè, potremmo usare sicuramente un linguaggio diverso. Anche perché buona parte, tenete presente una cosa, questo dossier che ha preparato il Ministero della Salute è una, credo, lo do per scontato conoscendo i colleghi che possono averlo fatto, è stato fatto sulla base di direttive burocratiche del Ministero stesso. Cioè, sono quelli che si stampa del Ministero della Salute e vanno dal direttore generale della salute e dicono come è, andiamo a prendere il protocollo 32 sul caso, il protocollo 32 magari è scritto in modo borbonico ma tradotto, e poi alla fine questo, la semplificazione del linguaggio è fondamentale ed è un percorso sul quale c'è ancora da fare, non della strada ma veramente dei chilometri, perché si rischia sempre poi di cadere nella frase sbagliata, nella parola sbagliata, perché per evitare l'aggettivo, per evitare la versione delle cose, vi attacca dei termini che sono o superati o troppo scontati, come quello che giustamente hai ricordato tu. Però questo esempio del caldo è un esempio perfetto, direi, per dire una cosa che è stata fatta ieri e come è stata impostata da un punto di vista istituzionale e da un punto di vista legale. Tutto attraverso lo stesso strumento, perché poi non dobbiamo dimenticare che stiamo ragionando attraverso lo schermo di un computer. quindi dando la possibilità a chi c'è davanti di decidere come leggere quella notizia, come cercarsela, come navigarsela. Il fatto che ci siano job siti che anticipano la navigazione autonoma dicendo fatti a vedere più le cose, se ne vuoi sapere di più è un segno di intelligenza, perché io mi fido del Corriere o del Messaggero che mi danno una sintesi giornalistica che mi può bastare, ma delegano l'informazione istituzionale, l'informazione pubblica, la comunicazione pubblica e la parte successiva. Questo è molto importante, è l'unico modo con cui i giornali online possono provare a saltare fuori da questo punto di vista, se no rischiano poi di essere vedete. Invece per quello che riguarda la questione dei rifiuti, se voi guardate sui siti, le notizie che vengono pubblicate sono notizie esclusivamente di un senso, cioè il fatto che c'è tensione, ci sono problemi, non si dice che... almeno andiamo a vedere il pubblico successivo, non si dice che è iniziata l'operazione in modo serio, in modo definitivo dell'emergenza rifiuti, ma si parla appunto di questo vice sindaco che dice faremo guerra civile. Da questo punto di vista siamo noi che siamo in parte in colpa, perché non abbiamo pubblicato da parte del governo, da parte di adesso andremo a vedere sul Dipartimento della Protezione Civile, ma dubito che ci sia qualcosa, come Presidente il Consiglio Comunale di questo paese che ha chiesto l'adesione alla Repubblica di San Marino e la richiesta all'ordine dei caschi blu. Se noi andiamo adesso al sito del governo cercando di comprare la protezione civile, perché noi non abbiamo dato notizia della parte finale, diciamo, dell'attuazione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio, quindi della partenza operativa del piano contro l'emergenza da parte di Sant'Orazzo, per trovare il sito del Dipartimento della Protezione Civile, o digitate protezionecivile.it oppure per fare il percorso, diciamo, istituzionale, dovete andare alla Presidenza del Consiglio, sotto la scritta Governo, Ufficio Dipartimenti, e poi andare al Dipartimento della Protezione Civile, che è l'ultimo dei dipartimenti che sono scritti. Questa è una notizia che però mi arriva a morte, non è vero. Se volete per emergenza casa, ecco, vedete, non c'è nulla sui rifiuti. Cioè, stata piano di caldo, stava di caldo. Emergenza rifiuti, sì. Se online il sito emergenza rifiuti campagna tutto ci sembra eccessivo. Vabbè, comunque. Filo diretto con Bertolacchio. Ecco, questo che scrive del coraggio non l'avevo visto, ma questo glielo facciamo cambiare lunedì. È tutto ciò che non bisogna fare su internet, quando dice stiamo lavorando per liberare la campagna dalla serie di rifiuti, chi vuole poter inviare tramite questo sito commenti, eccetera. Non risponderò a nessuno perché dedicherò tutto il mio tempo alla gestione dell'emergenza, ma leggerò con attenzione i vostri messaggi. Consideravo un autogol e un benissimo. Anche perché se non ho tempo per rispondere neanche per leggere, suppongo che è veramente una stupidaggine questa, perché lei non deve fare avere tempo per guardare le cose può essere utile. Il problema che poi viene chiamato come filo diretto con Bertolaso. Il filo diretto un po' spezzato. Un po' spezzato. Non posso lasciare. Sicuramente c'è da lavorare. Voi osservazione avete da fare su questo? Ad esempio, vedete, nessun giornale ancora si è accorto di questo. Si è accorto del fatto che esiste un sito con una personalizzazione del tema. è molto fatto meglio. Ho uno scroll un po' lungo. Se la scrive in crisi, se la accende nel campo di alimenti. Però, se per esempio... non c'è la possibilità di interagire, vedete? È molto chiuso questo sistema, chi l'avrebbe detto, no? Ma più da un punto di vista di cosa, politicamente nel progetto sia più aperto rispetto ad altri, si è aperto il sito del comune di Rada della Morata rispetto a quello del progetto. Questa è veramente una cosa importante da riconoscere. Quindi mi avete detto che guardate altri siti? Ho sentito Bologna. Bologna, cosa c'è Bologna? Ma no, il tempo l'è fatta bene, ho scritto la tutti. Sì, sì, ogni storia ha la sua meglio. Ah, l'ha fatto bene, ma Bologna, Bologna è un bel... andiamo a vedere, andiamo a vedere cose diverse, cercate di, andiamo, ritorniamo al governo, andate a vedere i siti del governo spagnolo, del governo tedesco, del governo inglese, scegliete uno, per me lo stesso, fate di tutto. Quale volete? In me. Thank you. ma però non è che sono proprio allora il number trattino 10 in cifre punto gov punto ok scusate. Siamo? Allora, questo sito che è un sito molto diverso dagli altri, dagli altri siti istituzionali, perché porta la colonna dei servizi in alto, sopra la prestata, l'unico che lo fa in Europa. Comunque, capita, c'è la possibilità di scrivere per... Avete visto dove? La prima voce, il contact del primo ministro. Ed è particolare perché la prima voce è praticamente che uno incontra nel suo percorso d'arte. L'ho voluto far vedere per questo, perché ha proprio una scelta diretta e poi vedete che dà tre possibilità. Alcune sono un pochettino appunto British, perché l'idea di quello che porta la scatola è molto benissimo, però l'idea di come l'idea è molto buona, poi la costruzione è quando poi voi schiacciate la parte email, a parte vedere la cosa più divertente per questo merito, la cosa che fa della posta, dice scrivete un'email e deve scrivere a mano. Si spiega molto di certe dimissioni. Dare l'idea proprio come non ci sia ancora, nonostante in Gran Bretagna siamo molto avanti, non c'è ancora una decisione, possiamo fare una foto all'altra al computer, no, appunto. Forse non ha un lasso. Comunque vedete, qua è divisa per categorie, quindi in pratica lui dice io interpreto io il problema, sono io il trend, questa è comunicazione politica, non è comunicazione non è una comunicazione di dire con il quale ti invito a scrivere. Ti dico sono io Tony Blair che interpreto il governo, devi scrivere a me se vuoi sapere di salute, di politica estera, eccetera. Sono io che poi decido anche di farlo. Noi abbiamo fatto una scelta del governo italiano che era diverso perché è diverso il sistema italiano. Non c'è un premierato così forte. E quindi non è che scrivo a una pratica di risolvere tutti i problemi. In Inghilterra c'è la libertà che li risolve tutti, perché è lui che si fa carico di tutto, è lui che li dispone. Quindi c'è una scelta politica anche da tutti i punti di vista, con il corpo di libertà. Ed è una cosa che invece non ritroviamo nel sito spagnolo, nel governo spagnolo, cercate a tutti i punti che sempre assieme. La Moncloa.es. qui non si sa chi si contatta. Non solo non si sa, poi ti chiedono addirittura il numero di passaporto. Però non te lo chiedono come obbligatorio. Dicono cosa vuoi scrivere. Qui è una cosa totalmente vaga. E stiamo parlando di un leader politico che è considerato estremamente, diciamo, moderno, no? Estremamente moderno. Invece il meccanismo di comunicazione è chiuso, tutto è chiuso, è vago, non è chiuso, tutto è sbagliato. Se non ho mai provato a scrivere al governo spagnolo, sarebbe interessante, sarebbe una ricerca, potrebbe per voi essere utile formulare la stessa domanda ai vari leader o ai vari governi per vedere i tempi di risposta. Sarebbe anche una sorta di inchiesta giornalistica per certi, da un certo punto di vista. Comunque, questo per farvi vedere come non esiste una regola e che molte delle regole poi alla fine non sono o politiche o comunicative, a volte sono semplicemente burocratiche. Quindi da un punto di vista poi per il, torniamo un po' al nostro tema principale, per quello che riguarda il comportamento poi dei mezzi di comunicazione, hanno buon gioco nel scavalcare questo genere di difficoltà da parte delle istituzioni di raccontarsi e di parlare, proprio perché loro possono porre le domande che a volte il cittadino non riesce a porre. Questa è ancora la posizione di vantaggio dei mezzi di comunicazione, quindi non soltanto commentare le notizie, dare le notizie, interpretare le notizie, ma anche essere gli unici a avere accesso alle notizie. Questo è il limite nostro. Per cui non è che noi pensiamo di essere di un governo avendo aperto un canale che parla direttamente al Presidente del Consiglio e al Presidente del Consiglio di scuola, perché è stato secondo farlo dal punto di vista fisico. Anche perché poi c'è un rapporto di fiducia, c'è, però ci sono dei passaggi su determinati tempi in cui mi confrontate con lui. E non è che il tempo sempre per prendere delle ore per poter fare le cose. Il vostro mestiere è curiosirvi di queste cose. Facciamo l'ultimo giro sul sito tedesco, che invece ha una sorpresa, ha qualche sorpresa, ha un sito di concerto. Qua avete visto che il sito spagnolo è fatto in tre lingue, sono catalano, in basso e in castigliano. Infatti, catalano, in castigliano, in catalano, in l'ultimo è basso. Ne manca un'altra. Dovremmo lavorare per fare tutta una serie di pagine anche in lingua, non magari quelle delle notizie, però queste notizie professionali devono essere le notizie.

dove c'è scritto chiede la casa bianca, il tema del G8, che è un tema che poi verrà discusso tra i leader mondiali, ma che fa parte di una serie di servizi che la casa bianca sta facendo, viene lasciata nelle mani di un delegato, in questo caso l'esperto che si occupa degli affari internazionali, che fa una sorta di chat che è prevista nel 1° giugno alle 1 del pomeriggio, e poi si possono iniziare a fare domande con tanto di foto, la biografia eccetera, per dirvi com'è perfetto. Cioè, se noi chiedessimo al ministro di venire a fare la chat da noi per mettere sul sito del governo quel problema, ma io mi assicuro che me lo faccio su mio, vado a farla repubblica.it, perché la devo fare? Cioè, qua proprio il mondo web è un mondo che è studiato esclusivamente per saltare il mondo della comunicazione. Non è con questo che si riesce a mettere qua il CNN, l'NBC, l'ABC o che legga il giornale Washington Post o San Giovanni, però è una fonte diretta. Se voi guardate in alto sulla destra, una cosa che c'è anche sul sito in greco, mi sono dimenticato di farlo vedere, se voi cliccate dove c'è scritto KISS, c'è la versione del sito dedicata ai bambini, cioè c'è tutta la costruzione di come ci si avvicina alle la foto del cane. Il cane è il cane di Bush, non è Bush, e ha tutta una costruzione esclusivamente dedicata ai bimbi, è propaganda. Ma quella che per noi oggi, se noi la facessimo sul sito del governo, sarebbe propaganda, soprattutto fatta così, ha comunque un suo senso. Se vogliamo insegnare ad esempio quella che era una volta impostata la famosa educazione civica, che viene fatta in modo non propagandistico, viene fatta in modo, diciamo, istituzionale, cioè si spiega la Costituzione ai bambini, spiegandone il valore, senza dargli una valenza politica, si fa un servizio utile. Qua chiaramente c'è, in modo abbastanza spacciato, una logica propagandistica, però non viene considerata tale dai media americani, perché viene considerata comunque come un servizio. Quindi tenete presente che esiste anche questo genere di... Cioè, se voi schiacciate sulla sinistra dove c'è la colonna con il video, dove c'è scritto pezzo, ci sono tutte dentro poi le immagini dei cani, dei gatti, dove sono presi nei giardini eccetera. Se noi facessimo una cosa del genere, sul sito con le prove che non ci presta o quanto pedalato oggi, ci esporremmo non a delle critiche ma a delle pernacchie giganti da parte di tutto il paese. In America, voi immagino non conoscevate questa parte del mondo del web, in America questo è considerato normale, ma esclusivamente perché siamo ormai a una fase che è partita 20 anni fa. Cioè, tra 20 anni queste cose si potranno anche raccontare magari in Italia, una volta che l'informazione sarà così precisa. Se io ho nella pagina, diciamo, seria, racconto il G8, racconto tutti i documenti, dico le cose, eccetera, io mi posso anche permettere di avere una sezione dedicata, diciamo, alle cose effimere, perché comunque rientra in un concetto talmente generale, talmente completo, che ci sta anche quello, non può essere criticabile, in fondo può essere vista una cosa. Fa parte della visione della politica e della trasparenza tale che si dica questa legge. Ma io non posso mettere il punto della personalità se prima mi dico quanto poi il cittadino costa la gestione del cane. Se io sono trasparente su tutto, mi posso anche concedere il lusso di metterci qualcosa di personale, altrimenti non è solo così. Comunque c'è anche il posto in sito per l'inglese, anche la versione dei bambini molto più carpata, molto più educativa. Mi state facendo un giro per la rete. Devo dire che è brutto. Allora, voi dovete considerarlo oggi drammatico ma domani divertente, cioè dovete pensare al fatto che è folle che si faccia una cosa del genere, ma niente, c'è una logica di normalità che dà spazio alla trasparenza totale della vita. È sempre una questione legata a quanto tu offri. Se tu offri tutto, se tu sei trasparente su tutto, ti puoi permettere di. Ok? C'è una parte del sito di bambini, padre, dove ci sono i messaggi ai bambini e alle militari, no? Tutti i però ce l'abbiamo anche noi, se voi andate sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, c'è un'iniziativa che si chiama Soldati in Pace, mi ricordo che siamo un sito diretto che si chiama Soldati in Pace, dove c'è la possibilità di scrivere i soldati di vita, da parte degli studenti delle elementari, ma parlate del progetto che viene fatto con la valutazione del Ministero della Difesa, del Ministero della Difesa, contro le grandi scuole, che ci segnalano, e sarà una cosa che mettono anche i dialogari che sono andati a parlare. Cioè, è completamente diverso l'approccio immediato, non è una cosa che si dice, non mi ricordo, non sono stato di fronte a bambini americani. Thank you. vedete? Vedete che ha grande successo perché l'ultimo messaggio è del 17 aprile, quindi io sono morto. Nel frattempo pure c'è l'iniziativa che sta, a cui è stato dato un certo valore iniziale, ma che poi è naufragata. Perché è naufragata? Io non so, non l'ho più guardato il mio io, perché sono talmente tante le cose. È naufragata probabilmente perché poi alla fine i militari là non gli hanno dato permesso di scrivere determinate cose, eccetera, così, per cui si è preferito dimenticare, ha avuto una sua valenza quando è stata presentata, si è voluto fare un certo tipo di percorso, ma poi internet ancora permette di far dimenticare le cose. Quando si dovessero raccontare, perché di questo chiederò, grazie alle vostre lezioni posso felicitare il stato di cercherò di capire come mai è successo questa cosa, perché è abbastanza divertito, tanto nel senso di invece quello che era all'inizio un tentativo positivo rischia poi di trasformarsi in qualcosa di negativo, nel senso del distacco tra i ragazzi e i soldati che sono impegnati nella missione di pace. Quindi soffici l'effetto contrario a quello che ti avevi proposto. Ma eravamo stavamo a circolare le scuole per non lo so, presumo di sì, io so che era stata fatta una... era stato fatto un progetto, quindi immagino se ci fosse stato anche una diffusione nelle scuole. Direi che ci siamo. Ci siamo lì? Dove? Ci siamo via del Regno, sì, l'aula. Non si può mai sapere, contiamo, non ti era male. Ma sei rimasto?